me, in un incontro fatto di pazzie. Provaci di più a cancellare quelle tue bugie. Sono dentro te e non riesci a fare a meno di me. No, no, non fuggirai. È verso me, verso me, verso me. Innalzando quello che vorrai. Sono dentro te e non riesci a fare a meno di me. No, no, non fuggirai. E verso me, verso me, verso me. Verso me, verso me. In un incontro fatto di pazzie. Verso me, verso me. Oh, yeah.